in primo piano. Buona giornata a tutti da Mauro Meazza, benvenuti alla rassegna stampa. Vediamo i temi che avete ascoltato anche durante il nostro giornale radio, come sono affrontati, come sono illustrati dai quotidiani questa mattina in edicola. Naturalmente, come potete immaginare, lo sviluppo delle indagini a Bruxelles, con gli ultimi arresti, uno dei quali ieri ha tenuto banco anche sulle televisioni, con questo arresto alla fermata del tram a Bruxelles, e poi gli sviluppi da tutt'altra parte invece del caso Regeni, cioè questa risibile ricostruzione che è arrivata dalle autorità egiziane, sono in evidenza un po' su tutti i quotidiani. Ad esempio dal Messaggero il primo titolo è proprio "Caso Regeni, l'ira dell'Italia sull'Egitto non è la verità". Come sapete, il Cairo sostiene che il giovane sarebbe stato ucciso da rapinatori e che gli assassini sarebbero stati tutti uccisi a loro volta. Però Palazzo Chigi, appunto, riferisce già il Messaggero in prima pagina, non crede alla svolta, e ci sono delle proteste molto sentite, molto decise da parte proprio delle autorità italiane. Così anche dal Corriere della Sera in prima pagina: nuovo depistaggio dell'Egitto su Regeni, l'irritazione dei PM italiani è una presa in giro. E poi al centro della prima pagina del Corriere della Sera gli sviluppi, appunto, delle indagini contro il terrorismo islamista, ISIS arresti in tutta l'Europa, lo segnalava anche il nostro giornale radio poco fa. Hollande, il presidente francese, che ha parlato di cellula annientata per quanto riguarda il gruppo che si è appunto occupato di organizzare le stragi del 13 novembre a Parigi. Cellula annientata, ha detto Hollande, ma resta la rete. E Salah, il ricercato più noto di Europa in questi mesi, Salah non parla più con i magistrati, non collabora più. Sul Sole 24 Ore il titolo di apertura è un po' diverso, perché diamo spazio invece a questioni economiche. Naturalmente anche sul Sole 24 Ore gli sviluppi degli arresti anti-ISIS in mezza Europa, e anche in evidenza nel nostro titolo di prima pagina sventato un altro attacco a Parigi. Ma il titolo più importante è per la cosiddetta super popolare, la fusione cioè tra Banco e Banca Popolare Milano, la fusione che avvia il riassetto del credito. A ottobre, è quanto segnaliamo oggi in prima pagina, nascerà questo gruppo, sarà il terzo gruppo italiano da 170 miliardi di attivi. E poi, sempre importante per il mercato finanziario, ma diciamo anche per tutti noi risparmiatori, sempre in prima pagina dal Sole 24 Ore di oggi, Poste, la nuova tranche sul mercato, c'è allo studio una ulteriore riduzione della quota che è attualmente controllata dal Ministero dell'Economia, riduzione che andrebbe dal 65% al 35%, riferisce Laura Serafini già in prima pagina. Il Ministero dell'Economia sta valutando l'opportunità di cedere un'ulteriore quota di Poste Italiane, la cessione avverrebbe entro la fine dell'anno. La partecipazione scenderebbe attorno al 35%. La società potrebbe essere inserita nell'elenco delle possibili nuove privatizzazioni che sono previste nel DEF di metà aprile. Come sapete, entro metà aprile dobbiamo varare il documento di economia e finanza per lo sviluppo e anche la tenuta dei nostri conti pubblici, e in questo documento a metà aprile, da presentare poi anche a Bruxelles, ci sarebbe anche spazio per questa cessione delle Poste. Torniamo sulle prime pagine di altri quotidiani, vi do segnalazione ad esempio dall'Avvenire, che ovviamente fa una scelta diversa, cioè comprensibilmente fa una scelta diversa. Infatti il titolo più importante è dedicato alla Via Crucis, alle parole di Papa Francesco. Il Papa: tutti fratelli, il terrorismo è profanazione del nome di Dio. Il no degli imam belgi, riferisce Avvenire, ma vengono ignorate le vittime. E il richiamo della prima pagina di Avvenire ricorda che nel discorso, appunto, a chiusura del sacro rito di ieri sera al Colosseo, la denuncia dei fondamentalismi e dell'indifferenza verso il dramma dei migranti, che, come sapete, Papa Francesco ha usato parole molto dure di fronte a questa indifferenza. No alla corruzione e al laicismo pagano, ma la croce di Cristo, ha detto il Papa, illumina anche i testimoni della speranza. Per La Stampa il tema più importante è la doppia offensiva contro l'ISIS. Però al centro pagina c'è anche un annuncio di un'inchiesta che poi trova spazio nelle pagine interne. Forze speciali nelle città a rischio, perché ovviamente c'è un'allerta molto elevato anche per quanto riguarda il nostro paese, e quindi un'attività di prevenzione. Regeni, ultima messa in scena, ricorda la Stampa in prima pagina, e poi anche un reportage da Bruxelles tra chi cerca di ricomporre i resti straziati, un reportage che dà ulteriormente la misura dell'orrore di quanto si è visto appunto a Bruxelles qualche giorno fa. Dal quotidiano nazionale Il Giorno vi voglio segnalare una vicenda che è stata scelta proprio da questo quotidiano per quanto riguarda il suo titolo più importante, la sua apertura: odio sul web senza limiti. Che succede? Minacce jihadiste alla nostra cronista. Facebook però si rifiuta di cancellare le pagine, ignorando l'ordine che viene dal giudice. E l'esperto dice: beh, ci sono anche gli estremi per oscurare con la forza. Nelle pagine 2 e 3 del quotidiano vi ricostruisco rapidamente la vicenda. Appunto, Benedetta Salsi, che è stata non solo minacciata, ma sono state diffuse informazioni anche delicate, come dove lavora, dove abita e così via, e poi è stata ovviamente presa di mira per una serie di articoli che erano dedicati proprio a una pagina ispirata, diciamo, alle tesi integraliste ed estremiste pagina di Musulmani d'Italia. Bene, la cronista è stata appunto presa di mira su Facebook e minacciata. Il magistrato ha imposto alla società di rimuovere la pagina, ma la società ha semplicemente detto che non lo farà, cioè ha scritto rejected, richiesta rifiutata, e fine delle comunicazioni. Adesso si vedrà se è possibile quantomeno porre un argine o un meccanismo di tutela anche per questo tipo di vicende su Facebook e sul web. E poi ancora dal Giorno la foto centrale che occupa buona parte della prima pagina è dedicata alla vicenda Regeni, l'ultima beffa, l'Egitto che dice abbiamo ucciso i killer, caso risolto, il governo e la famiglia che replicano pretendiamo la verità. Il Giorno ricorda anche una vicenda di cronaca che aveva abbastanza scosso tutti noi, cioè il professore che era stato sollevato dall'incarico perché anni e anni prima aveva subito una, si può dire, condanna probabilmente per aver fatto pipì dietro a un cespuglio. Bene, è stato reintegrato, lo segnalano tutti i giornali oggi, ne dicono nelle pagine interne, qualcuno anche in prima pagina, così fa Il Giorno, che ne dà una piccola segnalazione: reintegrato il professore licenziato. Il Giornale invece sceglie un tema più locale: Expo salva dagli immigrati. Il riferimento è alle ipotesi che erano state avanzate da uno dei candidati a sindaco nelle amministrative di Milano, di appunto un campo di ospitalità per quanto riguardava la prossimità dell'area che è stata dedicata all'esposizione universale. Ma il governo ci ripensa, avverte Il Giornale. Le elezioni amministrative si avvicinano, il governo innesta la retromarcia sull'impopolare piano sala per Expo. Nessun campo nomadi nelle zone adiacenti ai terreni dell'esposizione, come aveva ipotizzato l'amministratore delegato di Expo e candidato sindaco della sinistra milanese. E poi c'è quella vicenda dei rimborsi per le quattro banche cosiddette risolte, cioè Banca Etruria, Banca Marche e le altre. Stop della Unione Europea sui rimborsi, scrive Il Giornale. Come sapete c'è un percorso di ancora definizione di quanto potrà essere l'entità del rimborso e se sarà davvero necessario passare attraverso l'arbitrato del quale è stata incaricata l'autorità anticorruzione. Però snellire tutta la procedura è necessario che l'Unione Europea dia il suo assenso, assenso che ancora non è arrivato. La lettura che ne dà il giornale è abbastanza negativa, dice: la Commissione blocca il piano per rifondere i risparmiatori e quindi si scatena l'ira delle opposizioni. Ancora una volta, scrive il giornale, il governo non ha fatto i conti con le decisioni di Bruxelles, si ritrova obbligato a ridimensionare gli slanci del Premier Matteo Renzi. Anche noi dobbiamo adesso ridimensionare un attimo il nostro slancio, perché è il momento del traffico. In primo piano. E ancora buongiorno, bentornati alla nostra rassegna stampa. C'è una circostanza che ricorre proprio oggi, che avviene proprio oggi, che viene ricordata con maggiore o minore evidenza un po' da tutti i quotidiani, e mi sto riferendo alla entrata in vigore del reato di omicidio stradale. Come sapete, una discussione che è stata parecchio lunga anche in Parlamento, la legge finalmente è stata approvata e adesso da oggi l'omicidio stradale è in vigore, anzi scusate, da ieri, non da oggi ma già dalla giornata di ieri. Prendiamo, molti giornali avvisano di questa circostanza, sul Sole 24 Ore c'è però un servizio decisamente più ampio che occupa un'intera pagina e che spiega qual è adesso il rischio per chi dovesse commettere appunto un omicidio stradale. Il carcere, come ricorderete, come era stato detto già durante la discussione della legge e poi la sua approvazione, può arrivare fino a 18 anni, le sanzioni sono particolarmente severe e l'arresto diventa obbligatorio se c'è il consumo di alcolici o di stupefacenti. Una scheda che campeggia nella undicesima pagina oggi del Sole 24 Ore ricorda appunto sia il nuovo reato, che di fatto assorbe quello di omicidio colposo, e poi anche le aggravanti che sono previste per questo tipo particolare di omicidio. In realtà la legge probabilmente sarà molto difficile da applicare, l'avevamo segnalato anche durante la sua discussione, bisognerà valutare tutta una serie di circostanze, e così infatti ricorda l'analisi parlando di un cammino a ostacoli per questa nuova disciplina. E se volete appunto maggiori indicazioni vi rimando diversi altri giornali, ma diciamo il lavoro più completo, tra i lavori più completi sicuramente quello oggi nostro sul Sole 24 Ore. E poi un'altra notizia, sempre per quanto riguarda vicende di servizio, di informazioni di servizio, il canone RAI, perché è stato presentato ed è disponibile il modello per la dichiarazione sostitutiva che deve presentare chi non ha la televisione oppure ha un apparecchio che è collegato a un'altra utenza elettrica, e questo in previsione appunto del pagamento da luglio del canone RAI a rate nella bolletta elettrica, ma per scongiurare pagamenti non dovuti. In realtà, come tutti sappiamo, il canone RAI è anche una richiesta che viene spesso disattesa da molti degli obbligati, però per evitare appunto che chi non, invece davvero non possiede la televisione o ha pagato il canone su un'altra utenza elettrica debba subire una doppia richiesta, ecco che è stato messo a punto il formulario. Lo trovate sul Sole 24 Ore a pagina 22, canone RAI, lo stop a due strade, il plico può essere spedito per raccomandata entro il 30 aprile. Diversi giornali danno poi spazio, vi segnalo ad esempio La Stampa nelle pagine interne con una serie di domande e risposte per quanto riguarda appunto gli adempimenti da mettere in atto per evitare di pagare due volte. Oggi naturalmente, essendo sabato, anche con il Sole 24 Ore in edicola c'è Plus, il settimanale per il risparmio e i risparmiatori. Il titolo di apertura, il servizio di apertura di Plus questa settimana è dedicato ai costi della consulenza finanziaria: quanto vale il tuo consulente, quanto viene remunerato in base al contratto. La commissione avverte già la copertina di Plus, va dallo 0,3 al 2%, può arrivare al 2% del capitale investito. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Torniamo invece su qualche altro giornale, perché vi voglio segnalare notizie che vanno oltre magari quelle che avete ascoltato e che potrete riascoltare anche nel giornale radio tra poco. Ad esempio, il Messaggero avverte già dalla prima pagina della nuova misura sulla spending review, i risparmi contro la spesa pubblica non produttiva, la circolare del Ministro dell'Economia che dispone una stretta, così leggiamo poi dalle pagine interne, per quanto riguarda le consulenze e le auto. Lo abbiamo segnalato anche nel giornale radio delle 7. Il ministro Padoan firma la circolare che attua le norme che sono contenute nella legge di stabilità nel mille proroghe. Gli enti pubblici che sono i destinatari del provvedimento subiscono un divieto negli acquisti e nei leasing di vetture, e poi ci sono anche ulteriori vincoli per quanto riguarda spese legate all'informatica e a nuovi arredi. INPS, l'INAIL, le authority, le camere di commercio dovranno ridurre i collaboratori esterni e anche i gettoni per le riunioni. E veniamo a Repubblica. Repubblica ha come titolo principale Regeni, l'ultimo depistaggio, il governo basta false verità, e poi accanto, quasi di uguale importanza, retata in Belgio, ecco le rotte usate dai killer. Ma quello che vi voglio segnalare è una lettera inviata dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Repubblica, dove il Premier annuncia, promette più fondi e più cattedre per i ricercatori e per salvare, per rilanciare la ricerca. La lettera è richiamata nella parte bassa della prima pagina di Repubblica, all'interno poi viene riprodotta, è una lunga lettera che occupa quasi un'intera pagina di Repubblica. Si inserisce nel solco delle polemiche che c'erano state quando una ricercatrice, ricorderete, Roberta D'Alessandro, aveva attaccato il ministro Giannini dicendo, invitandola a non vantarsi dei successi dei ricercatori italiani in Europa, perché lei, e come lei molti altri, era dovuta emigrare perché l'Italia non mi ha voluto. Il 24 marzo poi Repubblica aveva ospitato una lettera appello di ricercatori italiani vincitori ancora di fondi europei che lavorano all'estero. C'erano state presentate 7 idee per salvare la ricerca, dai fondi per i giovani fino alla creazione di un'agenzia ad hoc. Matteo Renzi, con questa lunga lettera a Repubblica, promette, annuncia una serie di iniziative, segnala, rivendica di aver già disposto con una serie di interventi una maggiore dotazione finanziaria. Dice: abbiamo impegnato, a un certo punto dice nella lettera, abbiamo impegnato 246 milioni in un triennio. Cosa faremo? Ci saranno delle cattedre universitarie del merito, dice la misura già contenuta nella legge di stabilità, sono 500 posti di professore associato ordinario attribuiti a ricercatori di eccellenza. Questo però è stabilito appunto nella legge, ma ancora deve essere attuato, così annuncia il Premier. I vincitori saranno selezionati da commissioni di top scholars di indubbio prestigio internazionali e potranno essere chiamati senza alcun costo da tutti gli atenei italiani. E poi ancora fondi per la ricerca italiana di eccellenza, con un impegno già deciso, rivendica Renzi, dal governo. Trovate questa lunga lettera, come vi dicevo, proprio su Repubblica di oggi. E ancora su Repubblica di oggi, allora, in questi ultimi 30 secondi prima che Carmelo Lauricella inesorabilmente passi la linea ai programmi successivi, vi segnalo l'approfondimento e l'intervista con appunto il professore Stefano Rocca, è stato reintegrato dopo una vicenda di così ordinaria, non sarebbe giusto, ma diciamo di burocrazia impazzita. Era appunto stato sospeso perché anni prima era stato multato per aver fatto pipì dietro a un cespuglio. Ci dobbiamo fermare, naturalmente tanti auguri a tutti da parte mia e auguri anche a Carmelo Lauricella. Buona giornata a tutti da Mauro Meazza.